Anche se quella era una scuoletta di campagna, senza pretese, Laura decise di fare come si faceva in quella molto più grande che aveva frequentato lei in paese e di chiamare una classe per volta a recitare la lezione. Chiamò Ruby, che essendo l'unica della sua classe dovette rispondere da sola a tutte le domande. Non aveva compagni del suo livello che potessero aiutarla se non sapeva qualcosa. Laura le dette tutto il tempo di cui aveva bisogno e se sbagliava la lasciava provare di nuovo. Alla fine la piccola riuscì a sillabare tutte le parole correttamente. Tommy era meno pronto nelle risposte, ma anche lui, se gli si lasciava il tempo di riflettere, alla fine trovava la risposta giusta. Gli altri erano tutti e tre nella stessa classe di ortografia. Marta non fece errori. Charles sbagliò 5 parole, Clarence 3. A loro due Laura doveva dare un esercizio di punizione. Marta, puoi tornare al tuo posto, disse. Charles e Clarence, andate alla lavagna e scrivete 3 volte ogni parola che avete sbagliato. Charles si avvicinò alla lavagna con estrema lentezza e si mise laboriosamente al lavoro. Clarence, invece, le lanciò un'occhiata impertinente e cominciò a scrivere parole così grandi ed estese che quando arrivò alla sesta aveva riempito tutto lo spazio disponibile. Allora, girandosi a guardarle senza nemmeno alzare la mano per chiedere il permesso di parlare, disse: Maestra, la lavagna è troppo piccola. Era chiaro che stava cercando di trasformare la punizione in una buffonata. Era una sfida. Per un lungo, orribile minuto stette lì a guardarla ridendo. Laura ricambiò lo sguardo. Alla fine disse: Sì, hai ragione, la lavagna è troppo piccola, mi spiace, ma se cancelli quello che hai scritto e ricominci da capo, scrivendo più piccolo e con più ordine, riuscirai a farci stare tutto. Sperava disperatamente che lui obbedisse, perché non avrebbe saputo che cosa fare altrimenti. Sempre col suo sorriso impertinente stampato in faccia, Clarence si girò verso la lavagna, cancellò tutto e di buona lena scrisse le 3 parole 3 volte ciascuna, poi firmò col suo nome e un elaborato svolazzo. Con sollievo Laura vide che erano le 4. Mettete via i libri, disse. Quando ognuno ebbe riposto le sue cose nel cassetto del banco, aggiunse: Per oggi abbiamo finito. Clarence afferrò cappotto, berretto e sciarpa dal chiodo dove erano appesi e lanciando un urlo uscì di corsa. Tommy gli andò dietro, ma tutti e due si fermarono ad aspettare fuori, mentre Laura aiutava Ruby a vestirsi e le legava il cappuccio sotto il mento. Charles e Marta si vestirono con calma, avviluppandosi ben bene in sciarpa e berretto perché avevano un miglio da fare per arrivare a casa. Laura andò alla finestra. Si vedeva a mezzo miglio di distanza la baracca del fratello del signor Brewster. Il fumo saliva dal tubo della stufa e i vetri di una finestra scintillavano ai raggi del sole calante. Clarence e Tommy saltavano nella neve e dietro di loro si vedeva ballonzolare il cappuccio rosso di Ruby. Il cielo, per quello che si poteva scorgere da quel lato, era limpido. Ma la scuola non aveva finestre orientate a nord-ovest. Era di là che arrivavano le tempeste. Se il tempo fosse cambiato all'improvviso, lei non avrebbe avuto modo di accorgersene finché non fosse stato troppo tardi. Pulì la lavagna e spazzò il pavimento. Non serviva la paletta per raccogliere la polvere, perché tra una tavola e l'altra c'erano larghe fessure. Poi chiuse le ventole della stufa, si vestì, prese i libri e il secchiello del pranzo e, dopo aver chiuso con cura la porta, si incamminò verso la casa del signor Brewster. La sua prima giornata da maestra era finita. Tirò un sospiro di sollievo. Una settimana. Mentre arrancava nella neve, Laura si costrinse a vedere le cose con ottimismo. La signora Brewster non era certo una persona cordiale, ma anche lei prima o poi avrebbe smesso di essere scortese. Magari l'avrebbe trovata un po' più disponibile già quella sera. Entrò in casa con le guance arrossate dal freddo e le scarpe piene di neve e si mise a chiacchierare allegramente, ma la signora Brewster si limitò a rispondere a monosillabi o a non rispondere affatto. A cena nessuno disse una parola. Il silenzio era così sgradevole che neppure Laura riuscì a dire nulla. Dopo cena dette una mano a rigovernare, poi di nuovo se ne stette seduta nella stanza, sempre più buia, con la signora Brewster che si dondolava immusonita senza rivolgerle una parola. La nostalgia di casa le attanagliava lo stomaco. Quando finalmente venne accesa la lampada, andò a prendere i libri, si dette un compito e si accinse a studiare tutto per bene prima di andare a dormire. Voleva tenersi in pari con la sua classe in paese e sperava che lo studio la aiutasse a dimenticare dov'era. Se ne stava tutta rannicchiata sulla sedia, quasi che quel silenzio opprimente la schiacciasse da ogni parte. La signora Brewster non faceva nulla, Il signor Brewster, con Johnny addormentato in grembo, fissava il fuoco dietro la grata della stufa. L'orologio batté le 7, le 8, le 9. Allora Laura, facendosi forza, disse: «Si fa tardi, auguro la buonanotte». La signora Brewster non le badò, il marito si riscosse: «Buonanotte», rispose. Lei non fece in tempo a spogliarsi e infilarsi nel letto che nell'altra stanza la signora Brewster ricominciò la sua tiritera. Cercando di non sentire, Laura si tirò le coperte sulla testa e si premette il cuscino sulle orecchie, ma era inutile, sentiva lo stesso. Era chiaro che la signora Brewster voleva che sentisse. Si era messa a dire che lei non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi di lavoro per una ragazzetta piena di boria, che non aveva altro da fare che mettersi in gingheri e starsene seduta tutto il giorno in una scuola, e che se lui non la buttava fuori di casa, lei se ne tornava all'est e lo piantava in asso. Andò avanti così per un pezzo. Bastava il suono di quella voce a farla star male, perché era una voce che voleva ferire. Laura non sapeva come comportarsi. Non desiderava altro che scappare di lì e tornarsene a casa, ma non poteva permettersi neppure di pensarlo, altrimenti le veniva da piangere. Doveva trovare una soluzione, ma un altro posto dove stare in quell'insediamento non c'era. Le uniche altre due case erano abitate da famiglie di coloni. Dagli Harrison vivevano in quattro in una stanza e a casa del fratello del signor Brewster erano in cinque. Non avrebbero avuto modo di ospitarla. Non che lei lì desse chissà quanto da fare, si rifaceva il letto e aiutava in cucina. Ora la signora Brewster ce l'aveva con la prateria e col vento e col freddo. All'improvviso Laura capì: non ce l'ha con me, ce l'ha in generale. Io sono solo una scusa e una donna egoista e cattiva. Il signor Brewster non replicava. Anch'io devo fare così, tacere e sopportare, perché non c'è altro posto dove posso stare. L'indomani, alzandosi, si disse: devo arrivare alla fine della giornata, un giorno alla volta. Non era facile stare in un posto dove non la volevano. Avrebbe cercato di dare meno fastidio possibile, di fare tutto quello che poteva per non essere di peso. Buongiorno, disse gentilmente con un sorriso. Ma non poteva continuare a sorridere sempre, non si era mai accorta che bisogna essere in due per sorridere. Aveva una gran paura di quello che poteva succedere in quel secondo giorno di scuola, invece tutto filò liscio. Clarence guardava fuori dalla finestra invece di studiare e Laura temette di doverlo punire di nuovo, ma quando lo interrogò, lui seppe rispondere a tutte le domande. Forse alla fin fine non le avrebbe dato troppi problemi. Arrivò alle 4 stremata, ma anche il secondo giorno era andato. L'indomani a mezzogiorno sarebbe stata già a metà settimana. E di colpo, pensando così, si fermò col cuore in gola. Le era venuto in mente che alla fine della settimana l'aspettavano il sabato e la domenica, 2 giorni interi chiusa in casa con la signora Brewster. Si sentì mormorare: «Oh no, pa, non ce la farò mai». Si stava lagnando? Si vergognò di se stessa. Per fortuna non c'era nessuno intorno a sentirla. C'era solo la prateria, vasta, bianca, immobile. Sarebbe rimasta volentieri là fuori, nell'aria fredda e pulita, invece di tornare in quella casa odiosa o di dover affrontare la tensione di un altro giorno di scuola. Ma il sole stava tramontando. L'indomani sarebbe tornato a splendere e tutto doveva continuare. Quella notte sognò di essersi persa nella bufera. Era un sogno che conosceva. Dal giorno in cui con Carrie si era trovata davvero in mezzo a una bufera, le capitava di tanto in tanto di fare quel sogno, ma quella volta fu peggio delle altre volte, perché la bufera cercava di strappare lei e Carrie da quello stretto divano. Laura si stringeva a Carrie con tutte le sue forze, ma a un tratto Carrie non c'era più. La bufera se l'era portata via. Lei era terrorizzata, non ce la faceva più ad andare avanti e cadeva, cadeva e continuava a cadere, sempre più giù nel buio. Poi arrivava papà con la slitta gridando: «Che ne dici? Torniamo a casa domenica, scricciolo!» Che sorpresa per mamma e Mary, Carrie e Grace! E Mary diceva: «Oh Laura!» E mamma si illuminava tutta. Carrie correva a prendere il cappotto e Grace saltava su e giù battendo le mani dalla gioia. «Charles, ma perché non hai detto niente?» esclamava mamma e papà rispondeva: «Ma come, Caroline? Ti ho detto che andavo a fare un carico!» Era Laura il carico! E lei si ricordava che papà a cena, bevendo il tè, aveva detto: «Mi sa che devo fare un carico oggi pomeriggio». E mamma diceva: «Oh Charles!» Perché Laura non era mai andata via di casa, era lì, seduta con loro. Poi si svegliò. Era a casa dei Brewster ed era mercoledì mattina. Ma il sogno era stato così realistico che era tentata di crederci. Forse papà sarebbe venuto a prenderla sabato. Era tipico suo farle una sorpresa del genere. Durante la notte c'era stata davvero una bufera. Dovette battersi di nuovo la traccia fino a scuola. La pallida luce del sole dava un lieve colore rosato alla distesa di neve fresca e ogni minima ombra aveva una sfumatura di azzurro. Mentre avanzava a fatica, sprofondando nei lunghi cumuli ammucchiati dal vento, vide Clarence battere la strada per Tommy e Ruby. Arrivarono sulla porta tutti insieme. Ruby era coperta di neve dalla testa ai piedi, ne aveva perfino sul cappuccio e sulla treccia. Laura gliela spolverò via e le disse di non togliersi il cappotto finché la stanza non si fosse scaldata. Mentre Laura si spogliava e spazzava la neve nelle fessure del pavimento, Clarence accese la stufa. Il sole che entrava dalla finestra dava un'impressione di calore alla stanza, ma in verità dentro faceva più freddo che fuori. Presto però la stufa cominciò a scaldare e il fiato divenne invisibile. Erano le 9. Laura disse: "Sedetevi, cominciamo la lezione." 3 minuti dopo arrivarono Marta e Charles, tutti affannati. Laura non avrebbe voluto segnare il ritardo. Avevano dovuto battersi un miglio di strada. Fare qualche passo nella neve fonda è facile e anche divertente, ma battere traccia per un miglio intero è una fatica improba. Per un istante pensò di scusarli solo per quella volta, ma non sarebbe stato giusto. Che fossero arrivati in ritardo era un fatto. "Mi spiace. Devo segnare il ritardo", disse, "ma potete venire a scaldarvi vicino alla stufa prima di andare a sedervi." "Ci spiace, signorina Ingalls", disse Marta, "non pensavamo di metterci tanto." "Fare la traccia nella neve fresca è faticoso, lo so", disse Laura, e all'improvviso lei e Marta si scambiarono un sorriso. In quel momento ebbe la sensazione che d'ora innanzi tutto sarebbe stato più facile. Disse: "Venga la cattedra la seconda." E Ruby, che era la seconda, si alzò dal suo posto e si avvicinò al tavolino. La mattinata filò liscia. All'ora di pranzo Ruby venne a offrirle timidamente un biscotto e quando ebbero finito di mangiare, Clarence la invitò a giocare a palle di neve con loro e Marta disse: "La prego, così le squadre sono pari." Laura fu così contenta che glielo chiedessero e aveva tanta voglia di stare fuori all'aria e al sole che accettò. Si divertirono un mondo. Lei, Marta e Ruby si schierarono contro Clarence, Tommy e Charles. Volavano palle dappertutto. Clarence e Laura erano i più rapidi a tirare, i più agili a schivare le palle avversarie, i più veloci a pressare altre manciate di neve tra i guanti e via a tirare di nuovo. Laura stava ridendo, accaldata e divertita, quando una massa di neve le esplose negli occhi, riempiendole la bocca e tutta la faccia. "Oh, non l'ho fatto apposta", sentì dire a Clarence. "Certo che l'hai fatto apposta, era un colpo lecito", rispose, cercando di levarsi la neve dagli occhi. "Venga, la pulisco io", disse Clarence, afferrandola per le spalle come fosse Ruby e passandole un capo della sciarpa sulla faccia. "Grazie", disse Laura, ma in quel momento capì che non doveva più lasciarsi trascinare a giocare con loro. Era troppo piccola e troppo giovane. Se diventava una compagna di giochi, non sarebbe più riuscita a farsi obbedire dai suoi scolari. Quel pomeriggio Clarence tirò la treccia di Marta, approfittando di un momento in cui lei, girando la testa, inavvertitamente gliel'aveva fatta dondolare davanti al naso. "Clarence", disse Laura, "lascia in pace Marta, pensa a studiare invece." Lui le lanciò un sorriso divertito che diceva chiaramente: "D'accordo, se me lo dici tu, ma posso anche non obbedire se non mi va." E Laura si accorse con orrore che era venuto quasi da sorridere anche a lei. Riuscì giusto in tempo a mantenere la faccia seria, ma capì che con Clarence sarebbero stati guai. Finì anche la giornata di mercoledì, mancavano solo 2 giorni al termine della settimana. Laura cercava di non cedere alla speranza che papà venisse a prenderla, ma non riusciva a non pensarci. Papà sarebbe stato capacissimo di fare la sorpresa e salvarla dal fine settimana con la signora Brewster. Sì, ma lui non sapeva com'era l'atmosfera in quella casa. No. Non doveva aspettarlo, però magari veniva davvero se il tempo lo consentiva. E se veniva, c'erano solo 2 sere da sopportare e poi venerdì sera sarebbe stata a casa. Ma lei non se l'aspettava davvero. E se non fosse venuto, non sarebbe stata delusa. A casa certamente sentivano la sua mancanza, anche per questo, sì, se il tempo teneva, papà sarebbe venuto. Ma venerdì mattina il cielo non prometteva nulla di buono. Soffiava un vento più freddo del solito, e per tutta la giornata Laura stette con le orecchie tese, temendo di sentire l'urlo della bufera e i colpi delle raffiche sul tetto e di vedere il giorno farsi notte all'improvviso. Dalle fessure delle pareti entravano spifferi gelidi, il vento andava rinforzando e sulla prateria correvano folate di neve. Ormai sapeva che papà non sarebbe venuto. 24 miglia con un tempo del genere erano troppe per i cavalli. Oh, come farò ad arrivare a lunedì? Pensava abbacchiata. Girando gli occhi dalla finestra alla classe, si accorse che Charles era mezzo addormentato. In quel momento, però, lo vide fare un balzo e guardarsi intorno stranito. Clarence gli aveva punto il braccio con uno spillo. A Laura venne quasi da ridere, ma Clarence intercettò il suo sguardo. I suoi occhi ridevano, no, non poteva lasciargliela passare. Clarence, perché non studi? So già tutto, rispose lui. Probabilmente era vero, Clarence imparava in fretta, era in grado di tenersi in pari con Marta e Charles pur guardando per aria la metà del tempo. Vedremo, disse Laura. Picchiò la matita sul tavolo e disse: Venga alla cattedra la terza, prova di spelling. La baracca tremava tutta sotto l'urto del vento che si faceva via via più forte. Il calore della stufa scioglieva le folate di neve che si infilavano dentro dalle fessure delle pareti, creando sottili strisce bagnate sul pavimento. Clarence rispose a tutte le domande senza fare errori. Mentre lo interrogava, Laura si chiedeva se non fosse il caso di mandarli a casa un po' prima. Marta e Charles abitavano lontano. Se la bufera li avesse colti per strada, avrebbero rischiato di non farcela. A un tratto le parve che il vento avesse uno strano suono tintinnante. Tese le orecchie. Anche i ragazzi tesero le orecchie. Laura non capiva che cosa fosse. Il cielo non era mutato. Basse nuvole grigie correvano sopra la prateria coperta di neve. Poi il tintinnio si fece più chiaro, come fosse una musica portata dal vento, e di colpo l'aria si riempì di un rumore di campanelli, i campanelli di una slitta. Tutti i volti si distesero e tutti sorrisero. Due cavalli bai passarono rapidi davanti alla finestra. Laura li conosceva, erano Prince e Lady, i meravigliosi cavalli del signor Wilder. Il tintinnio si fece più forte, poi cessò di colpo. Restò solo, qui e là, qualche nota isolata, sottile. I cavalli si erano fermati sul lato sud della scuola, al riparo dal vento. Laura era così emozionata che riuscì a stento a controllare il tremito della voce. Andate al vostro posto. Attese qualche istante, poi disse: Potete mettere via i libri. È un po' prima del solito, ma il vento sta rinforzando. Per oggi abbiamo finito. La slitta con i campanelli. Clarence si fiondò fuori e un attimo dopo rientrò gridando: Cercano lei, maestra! Laura stava aiutando Ruby a infilarsi il cappotto. Di che arrivo subito. Muoviti, Charles, vieni a vedere che cavalli ha costui. Clarence tornò fuori, sbattendo la porta così forte da far tremare tutta la baracca. Laura si vestì in fretta, chiuse le ventole della stufa, infilò i guanti, prese i libri e il secchiello. Uscendo si accertò che la porta fosse ben chiusa. Non riusciva quasi a respirare dalla gioia. Papà non era venuto, ma lei tornava a casa lo stesso. Almanzo Wilder era seduto su una slitta così piccola e bassa che sembrava non ci fosse altro che un mucchio di pellicce sulla neve dietro le zampe di Prince e Lady. Era infagottato in un cappotto di pelle di bisonte e aveva un cappello di pelliccia con i paraorecchi che arrivavano fin sotto il mento. Non scese dalla slitta, ma sollevò le coperte e tese la mano a Laura per aiutarla a salire. Poi le rimboccò le coperte intorno. Erano calde pelli di bisonte, col pelo all'esterno e la fodera di flanella all'interno. Vuole passare dai Brewster? Devo lasciare il secchiello del pranzo e prendere la mia sacca, disse Laura. In casa Brewster Johnny stava urlando a squarciagola. Quando tornò fuori, Laura notò che Almanzo si guardava attorno disgustato. Ma lei stava andando via, tornava a casa. Almanzo le rimboccò ben bene le coperte intorno. I campanelli cominciarono a tintinnare allegramente e via, i cavalli partirono di volata. Attraverso la sciarpa che le copriva la faccia, Laura disse: È stato gentile da parte sua venire a prendermi. Ho sperato tanto che papà venisse. Almanzo ebbe un attimo di esitazione. Beh, sì, pensava di venire, infatti, ma gli ho detto che il tragitto era un po' troppo faticoso per i suoi cavalli. Dovranno riportarmi indietro comunque, disse Laura. Devo essere a scuola lunedì mattina. Beh, può darsi che Prince e Lady possano rifare il viaggio, disse Almanzo. Laura provò un imbarazzo terribile. Non l'aveva detto con quella intenzione. Non le era neppure passato per la testa che lui potesse riportarla indietro. Oh, ecco, aveva di nuovo parlato prima di pensare. Come aveva ragione papà, era troppo precipitosa. Doveva starci attenta. Dopo questa figuraccia non mi capiterà più di parlare prima di riflettere, si ripromise, e senza pensare a quanto poteva suonare scortese, aggiunse: Oh, ma non deve disturbarsi, papà mi porterà certamente. Non sarà un disturbo, disse al manzo. Le avevo promesso che l'avrei portata a fare un giro in slitta appena l'avessi finita. Adesso è finita. Che ne dice, le piace? Oh, è bellissima ed è così piccola, rispose Laura. Sì, l'ho fatta più piccola delle solite slitte. È lunga solo 5 piedi e larga 3 spanne in tutto da un pattino all'altro. Così è più confortevole, oltre che molto più leggera per i cavalli, spiegò al manzo. Non si accorgono quasi che stanno tirando qualcosa. Sì, sembra di volare, disse Laura. Non aveva mai immaginato che una slitta potesse andare tanto veloce. Sopra di loro le nuvole nere correvano al contrario nel cielo e al contrario volavano le folate di neve di qua e di là della slitta. Veloci e sicuri trottavano i cavalli, il dorso lucido e scuro. I campanelli cantavano, non un sobbalzo, non uno strappo. La minuscola slitta filava sulla neve come un uccello in volo nell'aria. Finì quasi troppo presto. Eppure no, non abbastanza presto. Passarono davanti alle finestre di Main Street ed ecco lì casa sua e la porta che si apriva e papà sulla soglia. Laura saltò giù dalla slitta senza pensarci e si precipitò su per i gradini e solo a quel punto, oh, grazie, grazie davvero, signor Wilder, buonanotte, gridò tutto d'un fiato ed eccola a casa. Il sorriso illuminò il viso di mamma. Carrie volò a prendere le cappotto e sciarpa. Grace si mise a battere le mani gridando, è tornata Laura, è tornata Laura. Poi entrò papà dicendo, fatti vedere. Beh, sembri proprio lo stesso scricciolo di sempre. Quante cose da dire, quante cose da raccontare. Quella stanza non le era mai sembrata così bella. Le pareti erano marroni ormai perché le tavole di pino diventavano di anno in anno più scure. Sul tavolo c'era la solita allegra tovaglia a quadri bianchi e rossi e sul pavimento i bei tappeti di pezze colorate. Vicino alla finestra, con le sue tendine bianche, c'erano le due sedie a dondolo, quella di Mary e quella che papà aveva costruito per mamma tanti anni prima, quando abitavano ancora nel territorio indiano. E sulle sedie c'erano i cuscini a disegni patchwork e lì accanto il cestino da lavoro di mamma con i ferri da calza infilati in un gomitolo di lana. Kitty si stirò pigramente, sbadigliò e venne a strusciarsi ronfando contro le sue caviglie. E sulla scrivania di papà faceva bella mostra di sé il vasetto coperto di perline azzurre che Mary aveva mandato per Natale. Continuarono a chiacchierare anche a tavola. Laura aveva più fame di parole che di cibo. Descrisse i suoi scolari uno per uno e mamma raccontò dell'ultima lettera che avevano ricevuto da Mary. A quanto pareva stava frequentando con grande profitto la sua università per ciechi in Iowa. Carrie raccontò le novità della scuola e Grace disse le parole che aveva imparato a leggere e raccontò l'ultima zuffa di Kitty con un cane. Dopo cena, quando Laura e Carrie ebbero rigovernato, papà disse: Se mi porti il violino, Laura, facciamo un po' di musica. Suonò ardite marce scozzesi e americane, dolci ballate d'amore, danze allegre e movimentate. Laura aveva un groppo in gola, tanto era felice e commossa. E quando fu ora di andare a letto, salì di sopra con Carrie e Grace e si fermò un attimo a guardare dalla finestrella le luci del paese che brillavano qua e là nel buio, tra il vento e le folate di neve. Infilandosi sotto le coperte, sentì mamma e papà che salivano nella loro camera, in cima alle scale, e le loro voci. Quella gradevole e dolce di mamma che diceva qualcosa, quella più forte e profonda di papà che rispondeva. Com'era bello essere a casa per 2 sere e quasi 2 giorni interi, così bello che non avrebbe voluto addormentarsi. Invece si addormentò subito e dormì serena, senza sognare che cascava da un divano troppo stretto, e quando aprì gli occhi, le parve che la notte fosse trascorsa in un baleno. Sentì sbattere lo sportello della stufa e seppe che era a casa. Era davvero a casa.